l'Ucraina e la Russia sono tra i principali esportatori di prodotti agricoli come grano e frumento e anche di quello che è necessario poi per produrre su larga scala questo tipo di commodity, che sono appunto i fertilizzanti e ovviamente le materie prime di origine fossile che servono per produrli. Dall'altro lato ci sono molti paesi, soprattutto del Nord Africa, del Medio Oriente e africani, che per storia, sviluppo agricolo, contingenze, situazioni strutturali, quali conflitti e cambiamenti climatici, sono fortemente dipendenti dalle importazioni. Quindi grandi importatori che riducano l'offerta sul mercato globale e esportatori che sostanzialmente vedono aumentarsi il costo di quella che possiamo definire della loro bolletta alimentare. Tutto questo ovviamente poi si riflette su economie che sono economie in via di sviluppo o meno sviluppate, dove ci sono altri tassi di povertà sia urbana che rurale e dove il cibo rappresenta comunque una quota consistente del consumo familiare. Quindi laddove si registrano, come abbiamo registrato noi nella nostra indagine su diverse comunità in 13 paesi, un aumento davvero significativo dei prezzi di beni di prima necessità come il cibo ma anche per esempio la benzina, questo ha un impatto significativo sulla povertà e sulla sicurezza alimentare. Ci sono stime su quante persone sono coinvolte dal rischio appunto di fame? Qui in realtà dobbiamo considerare diversi aspetti. Allora, la FAO ci dice che l'insicurezza alimentare è tornata a crescere anche in conseguenza del Covid, la grave insicurezza alimentare che poi è anche fame, e che i fattori strutturali che determinano un aumento di questa insicurezza alimentare sono cambiamenti climatici e conflitti. E poi ci sono fattori contingenti che sono appunto crisi pandemica, le conseguenze sociali che produce, oppure appunto tensioni geopolitiche che si riflettono sui mercati globali. Quindi noi sappiamo che la fame sta aumentando e che sembra che siano aumentati di oltre 100 milioni le persone a rischio di grave insicurezza alimentare. In questo momento ovviamente è difficile fare una stima di quella che sarà la conseguenza dell'aumento del costo. Perché? Perché poi nel mercato internazionale intervengono altri produttori, ci sono quelle che si chiamano coping strategy, cioè strategie di risposta a breve termine. Non tutti i paesi sono colpiti allo stesso modo. Ad esempio il Mali è un paese che produce i prodotti alimentari di base, li produce internamente, quindi molto meno dipendente. Yemen e Sudan ad esempio invece, o Somalia, sono paesi fortemente dipendenti dalle importazioni, quindi in questo momento è difficile dire le stime di impatto. Sappiamo che questa crisi geopolitica determinerà inevitabilmente, in qualche modo contribuirà a aumentare il solco, la distanza dall'obiettivo di sviluppo sostenibile fame zero, che era l'obiettivo che si è dato dalla comunità internazionale nel 2015 e che a questo punto, ma già prima della crisi ucraina, è comunque un obiettivo poco realistico, ecco, visto che negli ultimi due anni stiamo registrando un aumento dell'insicurezza alimentare, siamo arrivati a circa 815 milioni di persone che soffrono di grave insicurezza alimentare a livello globale. A proposito di cambiamento climatico, qualche settimana fa ActionAid ha fatto un focus sul Corno d'Africa, dove c'è una grave siccità che si innesta poi agli altri problemi che hai descritto e che fomenta anche altri problemi, altri fenomeni come il tema delle spose bambine. Sì, esatto, noi sappiamo appunto che quell'area che poi è l'area del Sahel è un'area fortemente strutturalmente colpita dai cambiamenti climatici, non piove da diversi anni, quindi l'agricoltura soprattutto in determinate zone non è più fondamentalmente un'attività viabile. Allo stesso tempo noi sappiamo che l'insicurezza alimentare, la povertà producono dinamiche di diseguaglianza profonda, dove essere maggiormente colpite poi sono le donne e nello specifico sono sicuramente anche le adolescenti, e registriamo appunto questo tipo di fenomeno che si lega molto molto spesso anche all'aumento della povertà e alla condizione di indigenza in cui le comunità si trovano a vivere. Quindi l'insicurezza alimentare si inserisce all'interno di una spirale di diseguaglianze, dove poi le diseguaglianze di genere, la violenza di genere piuttosto che altre problematiche si acuiscono, si intensificano. Quindi mi pare di capire che la lotta ai cambiamenti climatici da un lato, ma anche lo stop a tutte le guerre in corso siano ulteriormente motivate da problemi connessi alla crisi alimentare. Esatto, secondo me questa crisi comunque mostra anche un altro fattore, il fatto che comunque abbiamo sistemi alimentari anche in Europa che sono globalizzati, fortemente dipendenti dalle filiere cosiddette internazionali globali, e laddove le tensioni nel contesto geopolitico aumentano si riflettono appunto sulle conseguenze. Noi adesso lo vediamo soprattutto sulle materie prime energetiche, non lo vediamo ancora tanto sul cibo, anche se in realtà a livello per esempio italiano sappiamo che determinati prodotti prodotti che vengono realizzati, ad esempio tipo la pasta, nell'ambito dei programmi FEAD, che sono programmi europei gestiti dall'Italia e dai paesi europei per l'aiuto delle persone che soffrono di povertà alimentare in Italia, noi sappiamo che l'aumento del costo delle materie prime agricole ha un impatto anche sui livelli e la disponibilità di questi prodotti, però diciamo che non lo registriamo, soprattutto sulle materie prime energetiche. Però è solo un segnale appunto che ci dice che cambiamenti climatici, conflitti, tensioni ci espongono in qualche modo su ambiti fondamentali della nostra esistenza, come quello della sicurezza alimentare. E ovviamente i paesi più esposti anche ai cambiamenti climatici, che sono appunto poi quelli più poveri, sappiamo, sono quelli che si trovano poi in condizioni socio-economiche più poveri, più difficili, sono quelli che vengono maggiormente colpiti. Ma in qualche modo dovremmo un po' ripensare complessivamente il cibo e i sistemi alimentari anche da noi, non soltanto come dire nei paesi più poveri.